gli speciali di Radio Popolare. Dieci e 37 minuti, benvenuti sulle frequenze di Radio Popolare, seconda puntata di questa trasmissione che abbiamo chiamato Aldo Giannulli Leaks, con una chiara assonanza a WikiLeaks. Buongiorno Aldo Giannulli. Buongiorno. Ma a differenza di Julian Assange, i dati che sono serviti ad Aldo Giannulli per scrivere un paio d'anni fa, lo ricordiamo, non l'altro giorno, il libro 2012, La Grande Crisi, sono tutti pubblici, quindi non c'è stato bisogno, come Assange, di andare a, come dire, a spiare o a ricevere del materiale riservato. Certo, spero però che le differenze da Assange siano anche molto altre. Esattamente, che non finisce in galera. Dunque, da dove si è partiti? Si è partiti da un dato appunto incontrovertibile che era facilmente recuperabile, cioè che la crisi dei subprime, se vogliamo cominciare con quella, avrebbe provocato delle reazioni a catena disastrose, moltiplicate poi da che cosa? Beh, insomma, dall'incapacità della politica, intesa nel senso delle scelte governative, di riuscire a trovare una ricetta diversa da quella che aveva provocato questa crisi, vale a dire la ricetta, per usare una formula diciamo così semplice, il neoliberismo. Allora, insieme ad Aldo Giannulli in questi giorni vorremmo provare a individuare, diciamo così, gli snodi, quelli fondamentali che ci aiutino a capire come sarà davvero questo 2012. Ieri abbiamo parlato di economia e finanza, in particolare ricordando che c'è una valanga di titoli di Stato e una valanga di diciamo così azioni spazzatura, titoli spazzatura che sono in scadenza in questo 2012, 2013, 2014. Oggi vorremmo puntare la nostra attenzione sulla Cina. Perché? Perché la Cina è uno dei grandi player internazionali da cui dipende la via d'uscita da questa crisi. Prima però una domanda come sempre di strettissima attualità, perché poco prima di venire in onda abbiamo scoperto che ci sono 4 politici giapponesi che sono sbarcati sulle isole Senkaku, detto alla giapponese Diaoyu in cinese, che sono delle isole contese. Cosa c'è in ballo, Aldo Giannulli, lì? È una zona dove ci sono probabili, anzi quasi certi, depositi petroliferi, riserve. E peraltro è una zona molto pescosa ed è un periodo in cui c'è il problema dell'approvvigionamento ittico, soprattutto per il Giappone che ne fa grande consumo. Senti, ma non è l'unica rivendicazione territoriale della Cina? No, ce ne sono una quantità. La più famosa è Singapore. No, ma a parte Singapore, quella più diciamo attuale è la rivendicazione sulle isole Spratly, che sono a sud sostanzialmente fra il Vietnam e le isole in cui c'è Brunei. E infatti sono rivendicate anche dal Vietnam, da Brunei. Personalmente ignoro sulla base di quali ragionamenti i cinesi le rivendichino loro, visto che sono abbastanza distanti dal. Però è una zona con ingentissime risorse petrolifere. E ricordiamo che le isole, questo vale in generale, sono strategicamente decisive dal punto di vista militare. Pensate, certo, cosa vuol dire la Diego Garcia, per esempio, per gli Stati Uniti. È una punta, è una sorta di portaerei avanzata in un'area importante. Ritorniamo però a parlare di economia. Prima un aspetto un po' più generale, Aldo Giannulli, ma Cina da una parte, Stati Uniti dall'altra, le nazioni in via di sviluppo, o meglio, un tempo si chiamavano così, adesso si chiamano G20, l'Europa, possono agire di concerto o hanno delle strategie concorrenziali proprio sull'economia? Ma la caratteristica di questo periodo storico è il fatto di un ordine mondiale basato su geometrie variabili, per il quale Giappone e Cina, che sono alleate a quanto pare in questo momento dal punto di vista monetario per far fronte al dollaro, sono poi invece contrapposte dal punto di vista del confronto militare, e questa occupazione di cui parlavamo poco fa sembra quasi l'azione di qualcuno che vuol rilanciare una spina irritativa dei rapporti fra i due. Allo stesso modo in cui Cina e Russia sono alleate nei BRIC, però sono rivali e tendenzialmente confliggenti per quanto riguarda la zona di Vladivostok e la penetrazione cinese nell'estremo est della Russia. Quindi siamo in una situazione nella quale alleanze e conflitti non sono mai totali, sono sempre parziali, momentanei, precari. Ma quindi è una favola dire che questi paesi possono tutti stare al capezzale dell'economia malata? Ma il problema è che l'economia è malata perché tutti questi paesi, più che stare al suo capezzale, sono seduti sullo stomaco dell'ammalato, tendenzialmente. L'economia non è ammalata perché c'è una congiunzione astrale, è ammalata perché fanno certe scelte. La Cina possiede una buona quota del debito statunitense. Si sa che da mesi gli Stati Uniti cercano di spingere verso la rivalutazione della moneta cinese, e i cinesi continuano a dire picche. Ecco, la Cina può davvero fare pressione sulle altre economie? È in grado di farlo? Sì e no. Il problema è che la Cina ha fatto per 20 anni una politica di forte compressione della propria moneta e di sostegno obiettivo al dollaro per poter mantenere il proprio mercato di sbocco. Questo però ormai da un lato ha dato i risultati che poteva dare. Il tasso di indebitamento americano ormai è tale per cui, però dall'altro lato la Cina non è poi tanto libera di fare quello che crede. La Cina ha un problema. Non è libera per motivi interni? Per motivi interni. Il problema della Cina è questo: loro ritengono che la soglia minima di crescita del PIL debba essere l'8%. Una percentuale inimmaginabile a queste latitudini. Perché? Perché loro hanno il problema di 15 milioni di cinesi che dall'interno si riversano sulle città ogni anno, a cui bisogna dare un lavoro. E questo implica anche un'altra cosa: la Cina è il paese del mondo con la più alta percentuale di investimenti sul PIL, arriva a spendere il 47-48% del prodotto lordo per investimenti, il che presuppone una produzione costantemente e fortemente in ascesa, che però poi bisogna pure esportare in qualche modo. Ecco perché tutto sommato la Cina non è che possa poi spingersi più di tanto, ha dei vincoli interni molto forti. E invece a livello appunto internazionale viene invitata, i leader cinesi vengono invitati effettivamente come i padroni di casa, o ancora vige una sorta di scarsa considerazione delle loro capacità di azione? Ma sai, un po' tutti sono andati in pellegrinaggio a Pechino a chiedere il miracolo e a chiedere soldi. Però colpisce un fatto che quando i cinesi hanno fatto una proposta tutto sommato di buon senso, che era quella di superare il dollaro come moneta di riferimento internazionale sostituendolo con i diritti di prelievo presso il Fondo Monetario, quindi in qualche modo un paniere di monete, fra cui anche il dollaro, e semplicemente gli si è riso in faccia, non si è presa minimamente in considerazione questa proposta, il che significa che ancora c'è l'idea che la Cina possa essere Babbo Natale. Non mi pare che i cinesi abbiano proprio la nozione del Natale, di Babbo Natale. E però allo stesso tempo poi il bancomat non deve pretendere poi di intervenire nel merito di una serie di cose, e questo ovviamente provoca qualche nervosismo. Io do il benvenuto a Simone Pieranni. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutte e due. Allora, ricordo soltanto che da qualche settimana stiamo proprio collaborando dalla Cina con Simone Pieranni e la sua China Files, l'ho pronunciata bene? Sì, va benissimo. Che ci aiuta a capire appunto questo enorme ma anche contraddittorio paese. Allora, Simone Pieranni, innanzitutto, confermi o smentisci quello che ci diceva Aldo Giannulli poco fa, e cioè che dietro quest'immagine della locomotiva cinese in realtà c'è qua e là qualche scricchiolio. Io penso, mi sembra di capire, soprattutto una bolla edilizia, ma forse anche questo tema che diceva Aldo Giannulli poco fa, cioè loro devono investire ogni anno milioni di dollari, dico così, con questa valuta, perché ci sono milioni di persone che devono lavorare. Sì. Sì, sono d'accordo su quanto detto finora, nel senso che sicuramente la Cina, partiamo dalla premessa che comunque continua a crescere, probabilmente continuerà, anche se con una lieve flessione, a crescere anche il prossimo anno, però sicuramente sotto questa patina, diciamo, di locomotiva praticamente economica si nascondono parecchie insidie che comunque, vabbè, è giusto dirlo, Pechino conosce molto bene e sembra riuscire come sempre a controllarle. Proprio parlando della bolla edilizia, questa è una bolla che dovrebbe scoppiare da più o meno 2-3 anni, perché ci sono stati degli aumenti del 70% praticamente del prezzo delle case, e sono cominciate a diminuire solo quest'anno, e secondo una ricerca di JP Morgan che vedevo poco fa, dovrebbero ridursi addirittura tra il 5-10% sui prezzi nel prossimo anno e mezzo. La questione è che ad esempio l'investimento nell'edilizia è ancora un investimento molto propizio, soprattutto per gli investitori privati, e dipende in primo luogo da quell'investimento statale di oltre 700 miliardi di dollari che venne fatto a fronte della crisi del 2008, che diede quindi molto credito e che finì per garantire, diciamo, agli imprenditori privati una via sicura all'investimento, visto che non ci sono borse che vengono considerate affidabili da parte degli investitori privati o settori profittevoli, perché tutti i settori strategici sono praticamente controllati da aziende statali. Quindi il mattone, complice anche un meccanismo di risparmio molto simile anche a quello che poteva essere italiano di un po' di tempo fa, è diventato l'investimento principale praticamente di una classe imprenditoriale che piano piano è cresciuta. Inoltre teniamo presente che l'investimento nel mattone ha consentito un'urbanizzazione, che è comunque un obiettivo dei vari piani, anche del nuovo piano quinquennale, seppure con una pennellata di verde e di necessità di inquinare di meno, e naturalmente consente anche un traino di tutta l'economia, di settori strategici come siderurgico eccetera, e anche una questione di stabilità politica e sociale, perché garantisce lavoro ai milioni di lavoratori migranti che si spostano da una città all'altra per le costruzioni. Più in generale, quindi Aldo Giannulli, Simone Pieranni sta dicendo forse è in crisi ma non si vede ancora, se ho capito bene. No, un momento, ciao Simone. Ciao Aldo. Senti, i dati che arrivano qui, soprattutto al Sole 24 Ore, parlano di una flessione della bolla del prezzo degli immobili in alcune zone localizzate, per la verità, fra il 30 e il 70% addirittura, normalmente intorno al 30-35%, e si parla di 250.000 appartamenti sfitti nella sola Hong Kong. Ti risulta? Allora, per quanto riguarda Hong Kong non ho il dato, però per quanto riguarda invece la Cina, diciamo, io ti posso garantire che a Pechino, a Shanghai, è proprio visibile il fatto che ci sono moltissimi appartamenti sfitti, perché i cinesi non si possono, anche se c'è una crescita della classe media, il problema proprio che può diventare anche una questione sociale, un po' una sorta di patata bollente per il Partito Comunista Cinese, è proprio quello che la classe media è cresciuta ma non può accedere comunque a una casa perché i prezzi rimangono troppo alti. Sì. Io sui cali ho dei numeri diversi, nel senso che mi risulta che al massimo possa calare del 20% solo nelle grandi città. Simone Pieranni, l'altro grande tema, qui mi sostituisco da Aldo Giannulli, è invece le proteste sociali. Ce le hai già raccontate tu in questi giorni, non solo di grandi aziende dove si protesta per il salario, ma di questioni che riguardano la proprietà della terra. Probabilmente ci sono dei dati che riguardano sacche di povertà molto peggiori di come ce le immaginiamo. Anche quello rischia di esplodere, questo tema? Guarda, intanto la premessa è questa, che la Cina riesce comunque a mantenere una sorta di stabilità attraverso tutta una serie di metodi che adesso spero di riuscire a spiegare brevemente. Il dato principale è che anche se spesso si parla della Cina come un paese nel quale si pensa che i cinesi siano dei sorti di sudditi sempre disposti ad accettare tutto, in realtà ci sono almeno 100.000 di quelli che vengono chiamati incidenti di massa. Incidenti di massa sono rivolte, proteste, per dire Tiananmen nel 1989 il governo cinese lo cataloga come un incidente di massa. Ecco, eventi di questo genere, a fronte soprattutto però di problemi locali, cioè corruzione di funzionari locali, requisizioni illegali delle terre, demolizioni forzate, soprusi o semplicemente corruzione. Sono tutte proteste però che vanno, diciamo, considerate all'interno di una realtà cinese in cui, come è stato per il caso di Wuhan di cui abbiamo parlato, gli abitanti di Wuhan sono stati molto chiari: il loro problema era il governo locale, non era il governo di Pechino. C'è comunque una sorta sempre di rispetto per quanto riguarda praticamente il Partito Comunista, che riesce comunque a garantire un equilibrio sociale gestendo le situazioni in una maniera molto chiara, come è stato ad esempio a Wuhan, cioè fuori praticamente incarcerati i funzionari corrotti e arrivare poi ad una mediazione, tenendo presente che Wuhan è nel Guangdong, che è una regione che ha un modello che si sta un po' imponendo praticamente in Cina, perché è guidato da Wang Yang, che è un astro nascente, possiamo dire così, della politica cinese, probabile futuro membro del Comitato Centrale del Politburo, perché ricordiamo che nel 2012 cambieranno i vertici politici e cambieranno sei noni praticamente del Comitato Centrale del Politburo. Un altro dei, come dire, dei grandi temi appunto del 2012, quello. Certo, cosa cambierà dal punto di vista politico in Cina? Certo. Esatto, perché noi sappiamo già, diciamo che ormai le successioni politiche in Cina ultimamente avvengono sempre in modo molto, almeno apparentemente, molto tranquillo, molto pacifico. Sappiamo già che il successore del presidente Hu Jintao, nonché segretario del Partito Comunista, sarà Xi Jinping, che appartiene, diciamo, a quella cricca sostanzialmente di Shanghai, è considerato un po' il figlioccio di Jiang Zemin, quindi ha un'impostazione abbastanza spinta sul piede, diciamo, dell'accelerazione economica. Ma ci sono altri personaggi come appunto Wang Yan del Guangdong, che invece è considerato un po' il paladino di un modello liberale, tant'è che con Wuhan secondo me ha acquisito molti crediti all'interno proprio dell'intelligenza cinese. Poi c'è Bo Xilai, che invece rappresenta il modello più statale di Chongqing, che comunque è una città che è esplosa negli ultimi tempi anche a livello proprio di popolazione. Quindi sicuramente questo passaggio politico però tiene in allerta un po' tutti. Infatti la situazione ultimamente si sente che è molto tesa, sia a livello di proteste, perché naturalmente essendoci un cambiamento politico c'è anche una possibilità da parte ad esempio dei lavoratori delle aziende che lavorano per aziende straniere, hanno capito che è un momento buono per chiedere anche aumenti salariali eccetera, sia da un punto di vista più generale a livello repressivo, perché comunque nell'ultimo tempo, approfittando anche di quella che è stata chiamata la tentata rivoluzione del gessomino del febbraio scorso, in 9 mesi ci sono stati più o meno 300 arresti e anche a Natale ci sono state 2 condanne a 2 dissidenti tra i veterani, praticamente i dissidenti cinesi. Allora, quindi la situazione è ti devo fermare qui, Simone, ma c'è un'ultima domanda che ti fa Aldo Giannulli e poi una risposta molto rapida che dobbiamo andare a chiudere. Simone, a parte il fatto che la percezione che si ha di qui è di una lotta per la successione meno tranquilla del solito, cioè di conflitti che un po' si stanno aprendo nel gruppo dirigente, ti volevo chiedere a questo proposito una cosa. C'è stata, credo a settembre-ottobre, una riunione di una serie di personaggi del partito in occasione per festeggiare la fine della rivoluzione culturale, l'anniversario della fine della rivoluzione culturale. Ne è scaturito un documento nel quale si attaccavano quanti pensano ancora oggi di risolvere i problemi della Cina con metodi della rivoluzione culturale. Cosa interessante, fra i presenti a quella riunione c'era la sorella di Xi Jinping, il futuro segretario del partito. Ma l'attacco tu lo vedi rivolto a chi? A Bo Xilai? Allora, questa è una domanda molto interessante, perché in realtà su quell'incontro, di cui poi si sono avuti un po' di resoconti dei relatori, quello era l'incontro di quelli che vengono considerati praticamente i principini, cioè in Cina esiste un partito che è quello del Tai Zedan, sì, che sono i figli dei padri della rivoluzione, che adesso sono i figli dei figli praticamente di parte della rivoluzione, tra cui appunto la sorella di Xi Jinping. Erano messaggi, secondo me, rivolti apparentemente all'attuale dirigenza politica, che sta cercando comunque di arrivare. Cioè Hu Jintao è da molto che non parla, Wang Jiabao praticamente quasi completamente fuori dai giochi, almeno a quello che sembra, ma Hu Jintao invece sta tentando ancora, diciamo, di mettere possibilmente proprie persone all'interno, diciamo, delle, c'è stato una sorta di rimpasto praticamente di moltissime posizioni, perché ricordiamo che Xi Jinping venne nominato da Jiang Zemin proprio per contrastare Hu Jintao, con il quale non ha mai avuto un grande rapporto, tant'è che anche ultimamente, quando era sparsa, si era sparsa la notizia della morte di Jiang Zemin, sembrava che Hu Jintao avesse, insomma, lavorato molto per tenere tutto molto sotto controllo, in modo da potersi assicurare ancora un ambito di manovra. Quindi tu la leggi sostanzialmente come la riproposizione di uno scontro fra la cosiddetta componente dei principi rossi, a cui appartiene Xi Jinping, e la componente cosiddetta di Tuanpai, che è quella di Hu Jintao. Sì, sì, sì, questo si era anche evidenziato tra l'altro da alcuni leaks, proprio visto che abbiamo cominciato parlando di questo, di Wikileaks, però, in cui proprio c'erano commenti sprezzanti da parte di alcuni dei principini nei confronti dei, che appunto sono i figli nobili, diciamo, della rivoluzione cinese, nei confronti di quelli che vengono chiamati appunto i bottegai, cioè i politici di professione, che sono i vari Hu Jintao, Wen Jiabao. Questa è una lotta che è ancora aperta, sotto traccia ovviamente, perché poi sappiamo bene che il Partito Comunista Cinese è uno degli animali meno conosciuti, probabilmente, proprio interno, perché riescono a tenere tutto sempre molto sotto traccia. Simone Pierani, speriamo di sentirci presto dalla Cina a questo punto. Sì, tra ormai un paio di giorni. Tra un paio di giorni, grazie di queste informazioni che ci hai dato. Buona giornata. Grazie a voi, un abbraccio ad Aldo. Grazie. Ciao. Ciao Simone. Noi diamo appuntamento a domani, perché siamo già in chiusura, Aldo Giannulli, e appunto spiegando che abbiamo diviso queste trasmissioni in quattro parti, domani ci occuperemo invece un po' più approfonditamente degli Stati Uniti, anche con l'idea poi dell'impero, se hanno ancora in mente questo. Vuoi darci una... Ah, loro ci provano. Il problema è che non so se lo possono più permettere. L'impero è una cosa che costa tanto. Grazie, allora. A più. Prego. A domani. Gli speciali di Radio Popolare. We'll be right back.